Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, questa è Italia controluce, la seconda edizione, vi parla Daniele Biacchessi. È la seconda puntata di Italia controluce sui costi della politica, un viaggio tra gli stipendi di parlamentari, benefici, privilegi e giusti tagli imposti dal governo. L'inchiesta di Alessandra Schepisi. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante, visto che manager di Stato, tipo un manager dell'ENI o un manager che lavora in un ASL, guadagna tre volte un deputato, equivale a tre deputati. Mi sento privilegiato di avere avuto la possibilità, un'opportunità di avere un'esperienza parlamentare, però diciamo rispetto a quelle che sono remunerazioni alte, sia nei settori professionali, nel settore della consulenza, nel settore dell'impresa, direi che siamo addirittura al di sotto. Io nella mia indennità, avendo quattro figli, la famiglia tipo, credo, con mia moglie che è casalinga, come ce ne sono tanti altri, io devo essere attento al mio futuro, perché se io interrompo la mia attività di parlamentare e riprendo a fare il commercialista non avendo funzioni pubbliche, devo stare attento al mutuo, se scade, devo essere bravo a gestire la mia vita. Ma non è che mi arricchisco, se dice, non riesco ad arricchirmi. Il parlamentare non è uno che ha vinto un biglietto della lotteria e vive di rendere. C'è questa idea che per forza per tutti ci siano 11 o 12 mila euro netti percepiti. Non è così, perché chi fa le cose in regola e secondo le motivazioni per cui riceve i soldi ne prende 5-6 mila, non di più. Tagliamo tutto. Se dobbiamo correre dietro a quello che viene sputato contro di noi dai giornali, non è più finita. Forse se fossimo a zero sarebbe meglio di tutto, così che la conclusione sarebbe che la prossima volta soltanto i miliardari andranno a fare i parlamentari. Tagliateci tutto, anche la testa se volete. C'è una sottile rabbia che attraversa in queste ore i corridoi di Palazzo Madama e di Montecitorio, rabbia per un clima che i parlamentari, molti, non certamente tutti, definiscono da rivoluzione francese. La casta si ribella, insomma, e punta il dito contro la stampa che distorce e strumentalizza e contro chi demonizza una casta che di certo, dicono, non è la più privilegiata. Ma facciamo un passo indietro. La polemica nasce dal no dei parlamentari alla decisione del governo di intervenire per decreto alla riduzione degli stipendi se entro il 31 dicembre non avesse provveduto il Parlamento stesso. Se entro quella data, cioè, la commissione tecnica guidata dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini non avesse depositato il suo studio comparativo sulle indennità dei parlamentari in Europa, studio propedeutico alle decisioni da adottare. Una mossa che è stata letta come volontà di rinvio. A gettare acqua sul fuoco i presidenti di Camera e Senato, che in una nota hanno chiarito: il Parlamento farà la sua parte, ma la strada non può essere quella di un decreto, perché le Camere devono decidere in autonomia. Il nodo a questo punto è se la Commissione Giovannini ce la farà in tempi rapidi a concludere i lavori. E intanto tutti i parlamentari, a parole, si dicono pronti ad una sforbiciata. Benedetto Della Vedova, capogruppo di Future Libertà e componente della Commissione Bilancio della Camera. Credo che la polemica di questi giorni nasca da un equivoco, cioè la necessità di riscrivere una norma che va riscritta, che andava riscritta, che peraltro non conteneva nessuna scadenza reale, parlava solo in futuro di un decreto, sia stata scambiata per la volontà di rinviare o di non procedere alla revisione dell'indennità. Abbiamo stabilito un criterio che mi sembra un buon criterio, cioè di allinearci alla media degli altri paesi, lo faremo. Siamo in un momento di sacrifici e di carico pesante. L'esempio deve venire sicuramente anche da chi governa e dai parlamentari. È giusto così, lo faremo in tempi rapidi. Nelle prossime settimane verranno prese misure anche sull'indennità. Voi comunque dovete aspettare i risultati della commissione. Se i risultati non arrivano, provvederemo autonomamente, chiaramente. Solo un polverone mediatico e nessun intento dilatorio, assicura anche dal PD Marco Causi, componente della commissione finanze della Camera. A me sembra che sia stato un gran pasticcio in questi giorni sulla esatta comunicazione. Secondo me c'è stato, come dire, un eccesso di giornalismo costituzionalistico. È evidente ed è vero che non può essere il governo a intervenire, ma deve essere le Camere a intervenire, ma la cosa di cui davvero stiamo parlando, fate parlare l'economista, il ragioniere che si occupa di cose volgari, è di avere un parametro certo di riferimento. Questo parametro certo di riferimento deve essere dato appunto dalla Commissione Giovannini e fa salva la trasparenza dell'operazione. Quindi il punto cruciale, a mio modo di vedere sommessamente, mi sembra meno importante la querela costituzionalistica di chi fa cosa, mi sembra molto più importante chiedere al Presidente Giovannini di chiudere i suoi lavori solo per la parte relativa ai parlamentari in tempo utile ad avere il parametro a cui adeguarsi. A me non sembra che la cosa sia molto complicata. Qui, diciamo, al confronto con gli altri paesi europei ci sono due fondamentali differenze. La prima è che negli altri paesi europei i servizi di supporto sono pagati direttamente dalla struttura amministrativa del Parlamento dentro limiti di budget predefiniti. E questa mi sembra una soluzione molto migliore di quella che si usa invece in Italia, di dare ai parlamentari in tasca quelli che una volta erano 4.000, adesso sono 3.500 euro e poi il parlamentare si acquista i servizi. Il secondo elemento è che molto spesso nei confronti si perde di vista il fatto che in alcuni paesi, non in tutti, in alcuni, in particolare in Gran Bretagna, gli stipendi sono pagati senza tasse. Quindi noi abbiamo bisogno di una tabella emanata dal professor Giovannini con la sua commissione di studio che metta fine a tanta discussione inutile, e di fronte a quella tabella un impegno preciso ad adeguarsi entro 15 giorni dall'uscita della tabella. Attenzione però che calibrare gli stipendi dei parlamentari italiani alla media europea non è detto che porterà automaticamente ad un risparmio, come ci spiega Antonio Borghesi, vicepresidente del gruppo dell'Italia dei Valori alla Camera. Questo lo dico per onestà, che la media europea andrà fatta sia sulla parte che riguarda l'indennità diretta, sia sulla parte dei servizi collegati alla funzione, per cui secondo me non è così vero che ci sarà poi necessariamente un risparmio. Faccio un esempio: gli europarlamentari percepiscono un'indennità netta di circa 5.000 euro, però il Parlamento europeo per ciascuno di loro ogni mese spende fino a 17.000 euro per gli assistenti, per i viaggi, rimborsi viaggi e per queste cose qui. Quindi addirittura c'è il rischio che se la media fosse quella del Parlamento europeo costa addirittura di più. Come dicevamo, nessuno si azzarda a dire no ad un taglio all'indennità che a questo punto appare sempre più certo, ma la frustrazione serpeggia. Pier Giorgio Stiffoni, senatore della Lega Nord. Vogliamo moralizzare il tutto? Va bene, cominciamo a moralizzare tutta quanta la politica cosiddetta, tutti quanti gli stipendi dei politici. Se dobbiamo tagliare tutto, tagliamo tutto. Però facciamolo seriamente, per carità, noi siamo disposti a dare l'esempio, l'abbiamo dato nel 2005, nel 2006, nel 2008, nel 2010 e nel 2011 con l'ultima manovra. Pertanto l'aggancio che avevamo con i magistrati è stato tolto, i magistrati sono andati alle stelle e noi altri siamo restati fermi, anzi tagliati più in basso. Abbiamo già dato, dicono alcuni, visto che dal 2006 al 2011, tra mancati adeguamenti e tagli, gli introiti sono stati ridotti di 5.250 euro mensili. Francesco Giro, PDL. Abbiamo avuto dei tagli in questi anni, che sono iniziati con la legislatura precedente, 2006-2008, e che sono continuate con il governo Berlusconi. Quindi questa è la situazione, che c'è stato comunque un taglio. Ci sarà adesso un altro taglio, giustissima, perché un parlamentare, soprattutto che non vive a Roma, io sono fortunatissimo perché vivo e risiedo a Roma, ma un parlamentare che vive in Trentino, che vive in Calabria, che vive a Milano, ecco, si deve spostare eccetera e sopporta delle spese, vive fuori casa, alla sera stanno fuori raminghi, sono transumanze, e soltanto i romani sono molto favoriti, perché già uno che vive a Latina, che deve ogni giorno spostarsi sulla Pontina, 2 ore e mezza andare, 2 ore e mezza tornare, vivono con il trolley e girano per gli uffici e vanno avanti e indietro, è una vita da cani. Avete ascoltato il reportage di Alessandra Schepisi sui costi della politica nella seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ha parlato Daniele Biacchesi.